face like this won't break any heart. I'm thinking like that, I won't make any friends. Screw that, forget about that. I don't wanna think about anything like that. Screw that, forget about that. I don't wanna know about anything like that. I've got nothing to do but hang around and get screwed up on you. Beauty makes me feel alone. I look inside, but no one's home. Screw that, forget about that. I don't wanna think about anything like that. Screw that, forget about that. I don't wanna know about anything like that. I've got nothing to do. Tornati nel 1993 o nel 1994, quando i Therapy avevano pubblicato un album bellissimo intitolato Troublegum, dal quale abbiamo ascoltato questa Screamager, anche se il singolo ufficiale era la conosciutissima Nowhere, però devo dire che anche il resto dell'album è veramente notevole, quindi se ancora non lo conoscete, fatelo, perché ripeto, secondo me è un capolavoro. Un po' di saluti, allora messaggi arrivati al 335 100 7777. Anche se mi spiace un po' per Mox, sono contento di avere la possibilità di sentire anche te, dato che la sera non posso. Un bacione quindi a zio Pont. Saluto Massi da Forlì, come va il nuovo orario? Benissimo, io sono molto contenta. Sono sempre bene o male stata in questa fascia oraria. Se ho fatto 11:01, mezzogiorno, 2, mezzogiorno, cioè insomma, bene o male questo era l'orario, e sono molto felice di essere tornata un po' come ai vecchi tempi, anche perché la sera era tanto bella, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Mi occupavo delle novità e uno spazio nuovo, se vogliamo, però non è assolutamente la stessa cosa. No, puoi trasmettere con il sole, che meraviglia. Cosa farai dopo il 31? Beh, allora, prima una piccolissima vacanza, ma proprio minima, brutta, nel senso, no, brutta no, però all'insegna del super mega risparmio, perché ci vuole una vacanza dopo questi ultimi mesi. E poi spero non si dice niente, no, perché si incrociano le dita e poi porta male, quindi niente. Saluto anche Rock in Progress, ben ritrovato a quest'ora. Saluto Carlo da Milano, saluto Ma da lì, saluto anche Lucia da Ravenna. Potreste farci sentire da Radio Popolare l'intervista alle 14? Allora, a livello tecnico penso sia un po' un problema con quelle 10b. Vi diamo il permesso in via del tutto eccezionale di sintonizzarvi su Radio Popolare alle 14, perché appunto parte dello staff sarà in diretta per un'intervista. Saluto Frinz 78, bella Claudia, grandi ospiti quest'oggi, assolutamente sì, abbiamo parlato con gli After Hours del nuovo album. Saluto anche il buon Hank che ci ascolta ovviamente dal bar. Chiaro. Noi intanto continuiamo con la musica. Ve li ricordate i Puddle of Mud? Ecco, sono tornati con un nuovo album e questo è il nuovo singolo, si intitola Psycho. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She laid down on the fresh lawn. She can make everything not go, but she died one old bit time, and it makes me want. We're gonna win now. sapete che apprezzo particolarmente questi finali e questo sound bello peso, bello tamarro, come piace alla sottoscritta. Loro sono i Bullet. Io sono un po' tamarra, Pietro, non ci posso far niente, nel senso, si sa, quando c'è rumore io ci sono. Allora, Bullet for My Valentine, loro sono i due giovani ragazzi, ma tanto carucci e già tanto bravi, secondo me. Bullet for My Valentine, questo è il nuovo singolo, Scream and Fire, fa parte del nuovo album. Se li volete vedere in concerto, allora il 17 giugno andate all'Alcatraz, perché terranno la loro unica data italiana. Bullet for My Valentine, tra l'altro, saranno accompagnati non dagli Stack Mojo, come annunciato in precedenza, ma dai Black Tide, che sono un'altra formazione, se non sbaglio, americana, di giovani ma buone promesse, se vogliamo definirli così, per quanto riguarda il panorama rock. Sono un po' come i Trivium, no? Ormai molti artisti, quelli grandi, dicono: ah, guarda un po' che bravi questi Trivium, ma guarda un po' che bravi questi Bullet for My Valentine, e ora anche questi Black Tide. In diversi citano gli Avenged Sevenfold, però a me non piacciono perché mi stanno antipatici, quindi sono un po' di parte, anche se non si fa, lo so. Però due giovani formazioni, ripeto, verranno in concerto nel mese di giugno. Tra poco parleremo anche del leader dei Motley, che a sorpresa mi arriva in Italia. Ne parliamo tra qualche minuto. Intanto, a proposito di Motley Crue ovviamente, ecco subito il nuovissimo singolo. Ce li ascoltiamo con Saints of Los Angeles. Adesso Saints di Los Angeles, loro insomma veramente, allora io sono la Saint of Gallarate, questa era terribile, chiedo scusa. Allora Motley con il nuovo singolo, ma c'è una cosa che non capisco. Adesso molti penseranno: cara Claudia, sono tante le cose che tu non capisci, ma una in particolare è la situazione all'interno dei Motley, nel senso che, allora, si parla del nuovo album, si parla di questo tour americano insieme a Papa Roach, una cosa quell'altra, però vedo anche che nello stesso tempo Nikki Sixx è impegnato con il suo progetto 6AM. Vedo anche che Vince Neil, ad esempio, tra poco presenterà il suo nuovo progetto e farà il giro del mese, e farà il giro del mondo, e nel mese di ottobre sarà in Italia. Attenzione, attenzione. Quindi se mi volete vedere quel bello ossigenato, quel biondo finto di Vince Neil, però grande Vince Neil, assolutamente, sarà il 23 ottobre all'Estragon di Bologna. Ripeto, Vince Neil dei Motley, 23 ottobre Estragon Bologna. Sicuramente presenterà tutte le cose che ha fatto per conto proprio. 13:15, allora intanto continuiamo con un personaggio che con i Motley c'entra ben poco. Stiamo parlando di Marilyn Manson, che quest'oggi ritroviamo con la sua This Is The New Shit. Sing along, babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad and lonely, stick your stupid slogan in. Everybody sing, are you motherfuckin' ready? What a new shit, sitting up in the sing along. Everything has been said before. Nothing left to say anymore. But it's all the same. You can ask. Yeah. band per festeggiare un po' i 10 anni di carriera. Carriera iniziata nel 1996, hanno pubblicato tempo fa una bella raccolta, ovviamente i singoli vanno dal 1996 al 2006, ci sono le canzoni più famose degli Staind e giustamente come ogni raccolta ci sono anche dei singoli inediti, delle canzoni acustiche ad esempio dei loro vecchi successi e poi anche una bellissima versione proprio di Nutshell degli Alice in Chains, però appunto riproposta dalla voce di Harold Lewis, che secondo me è adatta anche per riproporre le canzoni degli Alice in Chains, perché vabbè, la voce di Lane Staley unica assolutamente, però quella di Harold Lewis un po' si avvicina. Un bacione a Paolo, grazie mille, che carino. Saluto anche il Giba da Firenze, saluto anche Fungo, saluto allora le frequenze di. Allora. Di. Giustamente di Radio Popolare, visto che i nostri saranno lì tra poco, alle 14. E tu, giustamente, Raven, allora, per quanto riguarda la zona di Bologna, Ferrara, Modena è 96.250 o 94.700, la zona di Firenze, Prato, Pistoia 93.600, zona Pisa, Lucca, Livorno 98.900. Queste appunto sono le frequenze, grazie ovviamente a... No, che frequenze vi ho dato? Quelle giuste, spero. Ringrazio il buon Pietro per le informazioni, si sono sbagliate, ovviamente è colpa sua. Saluto anche Tiziano da Livorno, saluto anche la Poiana e dice: sono proprio contenta di essere disoccupata e barbona distesa su una panchina a prendere il sole. Magari per un giorno o due vedrai, dirai che bella questa libertà, che bello non far niente. Dopo il terzo e il quarto giorno un po' di preoccupazioni arrivano, fidati, credimi. Saluto anche il Tonno da Pisa, un bacione. Saluto anche chi mi dice: ma sai che bello sentirti prima di andare a dormire. Ma adesso c'è la voce di Mox, secondo me è adatta prima di entrare nel mondo fantastico dei sogni. Saluto anche Giada. Cara Giada, io lo so che apprezzo continuamente Juliet Lewis, ho detto che bello anche il video degli Perfect Circle, ma non per le ragazze, no, assolutamente no. Anche se io non ho nessun problema, quando una ragazza è bella, io lo dico. Non sono come quelle che fanno, no, quella, ma l'hai vista. Magari hanno davanti una stragnoccona, dicono, sì, vabbè, però ha un po' di baffi, o no, guarda, secondo me ha l'attaccatura dei capelli un po' troppo alta. Quando una ragazza è bella, insomma, io lo dico senza problemi. Poi magari appunto mi arrivano anche messaggi come i tuoi, mi dicono, ma Claudia, no, etero. Però è anche il problema quando, insomma, lavori, quando hai lavorato per 15 anni con soli maschietti. I miei colleghi, quando passa una bella ragazza, non è che dicono, che carina. No, usano dei termini che sono assolutamente poco radiofonici e che sono decisamente pesanti, tra virgolette, quindi so che ogni tanto magari anch'io faccio qualche apprezzamento e la gente rimane un po' stupita. No, è tutto a posto. Ora vi lascio con i Papa Roach, questo è To Be Loved. Listen up, turn it up.